Que velha dici? Che qui dentro la memoria mia tengo tanti quelle vacanze. Come se ci avessi una neglia, attorno a casa. Poi una volta un colpo di vento e per un momento si vede ancora conto. Capo? E quasi sempre lo stesso conto. E poi una totale neglia attorno. Come vedono precise tutte quelle cose. Che qui dà memoria se ne pure aiuta. Di dispiacere e più guai. Chi te voglio dire, ci sono stati tanti quelle persone malamente. Però, quale mi venono? E quale mi venono? A volte pensa, ma com'è, come ricordo più niente. Come faccio a non mi ricordare quant'anni via frato mio, il giorno che si è sposato, o con aiuto militare. E invece mi ricordo di crepe, di pecore, du forno dove ci cuocevamo pane, da bagnarola, con l'alluminio, ce l'avevi pane. Ma ricordi quando piantavamo i fasoli, i patani, a circolo. Ma ricordo la terrazza, ad uno guardavo innamorato, du campi di grano, ad uno assassinato, secondo me ricordo, riesco poco e niente. Certe volte vedo uno sormiente, una veste, un bastone, e mi tornano in mente persone, gride, facce. Che si mischiano l'uno con l'altro. Ma ci sono cose, come posso scordare, a fine a che campo? Ci sono cose che mi ricordo vero stesso, ma tanto, uguale e precise. Perché non tu puoi scordare un momento in quando hai morto. Sono una guagnò e quando passi mezzo di gente dietro la capa vasciata fa che conti i petri per terra. Se mi parla di qualcuno, non so con un capo e via più fatto suo, ti risocco per difesa. E poi una tua capa vasciata a contare i petri per terra. Se viene da qualcuno e mi dice, ho chiamato la parta, io piglio subito a petrate, chi gli è sta competenza? Non dovretta nessuno, è un caos, ma io lo chiamo a terra, che senza mai si scontrano con quelli di un mascolo, tutto il paese mi chiama puttana. Sa vicina, già sposata, una vecchia, che sia, vede sulla pavia nuova, senza mamma mia o da suora mia più grande, senza pecore, senza non farci figli, non uccisti figli, pure per questo mi chiamano puttana. Solo una volta che mi ha già sposata, posso guardare, o mondo è andata mia, posso trarre da putia che tu zucchero, sale e posso portare la fede qui ricchi. Quando è una guagnona, dopo che ha fatto 18 anni, non si è ancora maritata, allo paese comincia a sfutto, a piazza dell'ona, a via. Ma non mi posso sposare, sono arrivato attorno a me. A prima aspetta la figlia più grande e poi all'altra, in ordine di età. E tieni i figli a me a casa di papà mio, tri, e siamo tutti pronti a sposare. Padre, non è contento, mamma mia, perché ha fatto nascere troppi figli e me ne andava a casa. Che nessuno voleva femmine tanto, solo mascolo volevano, quando nascevano figlio mascolo era nato il re principe della casa, e mettevano la corona e sparavano in cielo con i fucili, tanto che gli era dopo prima. Se nasce una femmina no, se nasce una femmina, erano a lutto. Una femmina era una disgrazia, ah così, ah pensavano. Se nasce una femmina era una preoccupazione, solo un po' di Dio assolutamente, ci voleva sempre un carabiniere insieme. O se impauravo no, ma sono giù di lì perché ha potuto fermare ancora via via, oppure mente era Dida che poteva guardare ancora via via. E questi era da femmina tenno. L'unico mascolo della famiglia, fratello Antonio, il terzo, io sono qua, quarto. Maria, più grande, si è sposata tardi. Quando io avevo già 18 anni. Trisina, a seconda, ancora non avevo nessuno, forse non è tanto bella, oppure un poco vagabondo, non lo saggio perché non avevo nessuno, ma se rimane di zitella, per Didi è una vergogna, per me, insieme a Didda. Un desiderio, teniamo noi fiamme del paese, e gli acquidi ne trovano marito. Ah, quando mi hanno detto che un giovanotto ha parlato di me con papà, ho già fatto il papà con dentizia. Questo giovanotto sta proprio faccia pronta a casa di papà mio. Ancora una volta lo vedo dalla terrazza, con gli occhi su, stendi i panni. Tenne un'automobile celeste. un vestito che è troppo bello, qua giacco, pantalone uguale. E porta sempre in mano una valigetta scura. Ah, l'era in faccia chiavi, sì. Ma mi è già sta accorto come vede nessuno. Così, quando passo per via nuova con una fasciocola in capo, prega la Madonna, fammo vivere, e dopo tanti giorni che ti spiegno, ma gli accorta che ora è la mattina, alle 7, faccio finta, ricoglie i panni dalla terrazza, e gli detto lui che acqua da bene, ma la capa sta ferma, solo lui che si muove, che pure qualcuno mi dà lontano, non può capire, tu sta guardando. Mi senti che voglio troppo bene a quel giovanotto. Eppure a quell'automobile celeste. E dopo che ha partito, rimango dalla terrazza e faccio un su e una vecchia aperta. Penso che siamo sposati, guarda la mattina come mo quando esce da casa. Penso che poi quando torna da Siro, faccio trasi, caccia giacchetta e porta a mangiare, come fa mamma con papà. Un vidolore mi sposato. Così pozzi sulla pavia nuova, pozzi trase da potere del paese, pozzi inzicca da quell'automobile con dite, pozzi a girare per i paesi quattro. E nessuno mi può dire puttana. Perché io ti cago a terra e cammino, non do retta a nessuno, tengo lui a chi va scelto. Però stavolta senza contare i petri per terra. E al paese non mi può dire niente perché sono sposato. Su questa terrazza è cominciata la tribolazione mia. Tanner già vecchio, più vecchio della sua me, più grande, 2 giorni che si è sposata. E speravo e mi disperavo. Avevo 19 anni, ancora così più, mi ricordo. Si è fatti cindere a memoria mia. Si è fatti cindere quel giorno che fu come accaduto in guad. Cindere, si è fatto. Mi chiamo Pascalina, sono una guagnonetta e vengo dalla Calabria. Oggi sono più precisa, per metà dalla Calabria e per metà da Basilicata. Capo, sono sempre gli stessi posti. Passo la montagna e sono da Basilicata. O viceversa. A me tanto tanto andare, come ricordo io come si chiamava dalla prima volta. Ma tanti, è proprio vero stesso, uguale e preciso. I gente hanno male queste mie, come è qua e da. Metti che tanti i da hanno avuto qua e tanti qua hanno avuto da e i conti. Sono mischiato tutto, ma qua o dai, è proprio quello stesso, quello è preciso. Allora diciamo che venga una parte all'auto da montagna un pollino, con sore ma stramattina da crape, piccolo e porci, e fatico come un mulo. A 6 anni, padre, mi ha imparato a guardare agnelli, a gotto, ma promossa alle piccole. E a 10 ha aiutato a guardare i vacchi, che gli ho guardato i vacchi fino a 12 anni. Questa è la scuola che gli ho fatto, questa è la scuola che gli ho fatto con Patrima, un professore. Patrima. Patrima. Mi ricordo come se fossi ieri. A 7, andando focolare, con la sigaretta a mucca e una quanti femmine che giravano attorno. Paria un re. E attorno tutta la servitù che girava da cerchio. Dì da lucentro e femmine a cerchio. Qui chiede che voleva mangiare, che scappava a fare la cucina, qui portava con assaggiare, quando gli ho detto, non re, patria. Era in vasceria, un ergavato, con la pelle scura scura, lui come a 2 braci, nivoro come un carbone. Non gli ho mai toccato, io a patria. Non gli ho mai toccato, tanta più paura che mi pigliava da scaffo. E a parte i scaffi, non mi ricordo neanche se mi ha mai toccato di altra maniera. Un giorno si è rotto un piede che era una cavata e noi fiamme hanno ballato tutto il giorno per contentizzo. Con non poter più scappare preso con un bastone. Ehi, patrima, patrima, patrima, patrima. Mi ricordo New York come se fosse ieri. Si caccia da cinta di pantalone, credendo come hanno stesso, perché i piedi erano tornati su. Con una mano mi incappa, strindo i capelli, mi strascina per terra. Gappa a forbice grossa per tagliare l'ane di pecore e mi carusi capite tutto, con ci avrei rimasto più niente in capo. A capa mia, avrei rimasto vera netta, lisce, come quando toccava la faccia. A voglia gridare, a piangere, a mi disperare. Avevo stato io colpevole. Mi è venuto su un capo caldo che faceva i pecore, si erano allontanati, mi fatto loro. Così. Funzionava tanto. New York senza bastone, o non era New York come a tutte le altre. Ma carosa di capire niente. Che mi avrei voluto ammucciare a banno, tu mi potevi dire nessuno, avrei voluto sparisce da tutto il mondo. E già prima brutto come dei vesticetti, mezzo sciancati, caputano questi menti, scappa, tanto si usavano per i vesticetti. E ti arrangiavi si più. Proprio pure mamma pigliavano pari metri qui da Talamara e ci arrangiava. Una vesticella per una guagnola, quando marrona, quando verde, quando blu. Mamma no, mamma solo nivore vestiva, sempre veste nivore portava mamma. Ah, quando abbiamo morto nonno, sempre veste nivore portava. Poi morta la mamma, e si è tenuto. E poi una volta un parente di suo, una volta un marito non si è mai cacciato fino a quando è morto. Ma non era solo di te, erano tutti. Avevo morto un marito di Zatresinavetella, per esempio. Avevo morto una marina che ha fatto morire un cavallo. Ha strascinato un cavallo fino a quando è morto strascinato. Si aveva fatta perfino il lenzuolo nivore. Pure il lenzuolo di lietto nivore si aveva fatto. Si attende, perfino il lenzuolo di lietto nivore. Poi pigliato. E senza una Madonna. La Madonna Ippolita che ha detto. Se tu ha detto. Fai sta ancora il lenzuolo di nevore all'ulietto, sei una piccatora. Dice che ha detto. E poi ha condenato la Madonna. Hai portato un agnellino alla Madonna e ti hai cacciato il lenzuolo di nevore all'ulietto. Come sei tornato questo? Ha pigliato l'agnellino, ha portato la Madonna e si è cacciato il lenzuolo. Ma si è cacciato solo il lenzuolo all'ulietto, però che sta zatresina ci ha avuto a morire culutto, guaddo. No, vestimenta, gap, scappa. Tanto si usavano quei vesticelli e ti arrangiavi si più. Ma quelli che ne mancavano assai erano i scarpe. Ne arrangiavano, sì, quei zoccoli lì, però. Capo, quei zoccoli lì ti facevano male lo stesso. Con tutte quelle fosse che c'erano, relettali, pietre, spine. Ah, i scarpe per noi erano troppo necessari. I scarpe per noi erano come pogliessimo, che ne sa, ciò che pogliessimo. Ah, come non me ne mettono conto. Durante la stagione, padre, ma io avevo un mercato con i conticelli che facevamo da l'urti, i pomodori, i patani, i fasoli, e puro formaggio. Capo ero io che facevo formaggio. Avevo un mercato, papà, ci ha con un amico di suo, che con un amico di suo aveva un camion, capo a mia tenna, mi pareva un camion, che sennò ero con quei camionette piccoli, quei da tre rote, ecco. E quando io avevo formaggio con quell'amico di suo, il papà ci portava pure a mia. Loro stavano a Nantes e gli arrivano, mia zicascetta. E quel viaggio per me era un divertimento troppo grande. E i viaggi nero di prima arrivare al mercato. Io mi accorgi che abbiamo arrivato, quando cominciavo a vedere quelle case, gavot, i marciapiedi, quelle marciapiedi larghe. E poi i negozi. Oh, come erano belli i vetrini quei negozi, si upaccia io per i vetrini quei negozi, si upaccia tante scarpe che c'erano, ma scarpe così belle che erano fatte per video, ma fatte per video veramente, che andava a campagna che ne facevano quelle scarpe. Con quelle scarpe c'era questa camminata di marciapiede, belle lisce. Notti campagna. Ma emoziona, meglio grande, di era quando vedi quella statua. Ma era tale. Quale le chiamano come a noi, ma tale quale uguale preciso. Io guardavo e rimane incantato. E pure dire, mi guardava e ridì. Ogni volta che passava, dire, mi guardava e ridì, che parecchio contento di vedere in un paese. Avvicinai già, cercavo con lui. E quando ero faccia pronto l'uno all'altro, dire, mi guardava fissa da lui. Ma guardava proprio come ti può guardare una persona che ti può parlare. Ma proprio stesso uguale preciso. E io sapevo quello che voleva dire, dire, quella volta che aveva di scura in faccia. Perché? La volta prima abbiamo passato dritto con il camion, senza fermare. E questo, lui dice, dite, picchiavo da prima, hai passata dritta con camion, senza per me. E mai gli ho detto, dipende da me, quindi ha luce rossa. Io prego sempre a Madonna che si appicci, quella luce rossa, per sta guarda a te, ma puh, tanto tu non si appicci, rimane virta. E poi qua non dice niente, io sapevo quello che pensava dire, ma guarda sto povero acciotto come si veste, e come moglie veste, ho statua, ma che ne sapete di me, io come la stava sera vestita in andulietto così mi inseccava la mattina a priesse, ma proprio così come erano, quelle precise, ma che ne potete sapere di se di ancora avevano vestito da sposa, così bello, non si era mai visto in nessuna parte del mondo, un vestito da sposa bello come a Guido, ma così bello che pareva una favola, io guardavo, rimanevo incantata. Un camion, l'avevi passato e io ancora stavi a guardare, me ne potevo spizzicare, non ero mai curda tu guardare. Ah. E era un divertimento troppo grande per me, quello viaggio. Una cosa sola, mi ha sempre traverso. Quelle femmine che camminavano per marciapiede, mezzo spugliate, con la vesta corta, e i gamma fuori, che pareva che dicevano, te guardami. Femmine che avevano scontato tutta la vergogna, pensavo. Camminavano sbracciate, ma non poco, sbracciate assai, che si vedeva tutto, fino a sotto mascolo, ma tutto tale quale aveva fatto Gesù Cristo. E questo anche bastava. Portavano pure i maglie scollate, veste a mele gonne, menzi, puttane, pensava che sangue entrava qualcuno, là, guardava, fino con una vedia. Un soffio me ne serve questo, pensavo, se non si ci vestirono così, quelli che si vestono così, che mondo e mondo fanno quel mestiere, quelli fanno, se non si ci vestirono così. Noi siamo tutti coperti, qua vesta longa, sotto con occhio. E mica sbracciato come loro, quei maniche longhe. Pure che ti facevano cavolo di comoriesi, io portavo su stesse maniche longhe. Oppuramente a maglia a tre quarti, quella manichetta. Povero stupido, credevano che l'uomo non si avvicinava per loro, per quando erano belle. Povero stupido, con uno capiscino che l'uomo ci solo per si diverte con loro, l'uomo con loro si divertiva, poi basta. Povero stupido, con uno capiscino, questo pensava, che se incontrava, non la guardava, fin quando la vedeva, non ci avevo mai parlato con i loro io. Capo noi, non parlavamo mai con nessuno. Non parlavamo, manco con i femmini del paese nostro, manco tra di noi, i femmini con i femmini del paese nostro parlavamo, non c'era mai occasione. Capitava anche una volta, quando avevamo visite, e alle spose Alizie, ecco, alle spose Alizie capitava, ma non c'era competenza, non eravamo abituati, eravamo come astrai, ma che te volia si dice? E allora parlava, si diceva, come ero mangiato, a sposa, se era bella, se era brutta. Capo la sposa, vediamo tutto quando stesse. Si guardavano i ricchini, si guardavano le scarpe di gente, si guardavano la tefia, ma quelle fiamme non si erano ancora sposate perché si erano sposate perché non si erano sposate. Capo i più maligni si ci vedevano i passaggi, a zitellona, via zitellona, non si vergogna che ha fatto vecchia, non si è ancora sposata. Ah, quando è di 18 anni, basta. Quelle vie me ne mettevano paura, mi pareva che potevano sfruttare mia come hanno fatto prima con l'altro, ogni vedevo come si toccavano quando passavo, ogni vedevo come ridevano quando camminavo. Un guagnone però aveva chiesto a mio padre, prima tocca a Tresina, la sua era più grande, aveva risposto, ma un guagnone, mi volia, solo che prima mia c'era Dide, c'era Tresina, e a Dide non aveva nessuno. E un centrale si dirono poco, assai l'uomo del paese, a Dide non aveva nessuno, stesso e basta. Come se dire c'era e non c'era, come se fosse una fantasma. E io mi disperavo, pensavo, ma quei due, è impossibile che stanno ancora aspettando. Eppure che stanno ancora aspettando, non può mica aspettare in eterno. Non è che si è stancati di aspettare per tutto questo tempo. E sta piaciuta la mia figlia, più piccola, che tanno guai, perché l'uomo si vedeva che erano ancora vere piccole, i figli. A pura nostra. Ieri, che una volta fatte grandi, poi a noi non volevamo nessuno. Fino a 18, 20 anni, eravamo ancora buoni, c'erano ancora possibilità, ma poi ha cominciato le male lingue. Se non si erano sposati, vuol dire che non si erano fatti i fatti loro. Se avevano fatti i fatti loro, si erano sposati. Capo? A quell'epoca ce n'erano veramente tante femmine con si erano sposate. Ma tante che ce n'erano, con il paese nostro, io per nominato, lo chiamavano paese di Zitellone. E aveva pure una spiegazione, questo fatto qua. Perché a quell'epoca c'era stata la guerra, alla seconda guerra mondiale, e i mascoli avevano partito tutti, chi per l'Albania, chi per altri paesi stranieri. E un paese aveva rimasto deserto, e quando poi la guerra è finita, tanti hanno tornato e tanti no. E così è successo che i figli non si hanno potuto sposare perché tutti gli uomini hanno partito per la guerra. E poi è successo che manca dopo, quando gli uomini sono tornati dalla guerra, i figli non si hanno potuto sposare perché il 50% che c'era morto, che si è sperduto, chi in una maniera, chi l'altro. E l'altro 50% hanno visto i guagnonetti più giovani e si sono pigliati i guagnonetti più giovani. E i grandi hanno rimasto fregati. Allora, sti figli più grandi stavano signorina da casa e ci facevano vecchi da casa senza sposare. E da quel periodo ci n'erano state proprio assai queste signorine che hanno fatto vecchi da casa senza sposare. Non si hanno sposate più per mancanza di uomini. E tutte queste signorine che avevano fatto vecchi da casa senza sposare chiamavano zitellone. Dopo i suoi ce n'erano quanti queste zitellone, ce n'erano sino a fine, proprio per la guerra che c'era stata. E tutti i paesi d'attorno, in due paesi nostri, proprio tutte queste morti che c'erano state nella guerra, c'era un monumento di morti più grande che c'era. E tutte queste signorine che venivano fatte vecchie da casa senza sposare questi zitelloni che chiamavano, passavano andando un monumento, ma ci passavano con gli andalucci andando un monumento. Passavano andando i zitelloni che angiano e pugnottiano, andando da rieto con gli chianti. Padre cogna la gente che c'era. Ma ricordo che con i tempi si piangia più assai in un monumento che in un camposanto. E il 2 novembre, a festa di morte, c'erano tanti quelli zitelloni in un monumento che pare che c'è stata adunanza. Tanti di zitelloni che c'erano. Guardavano le statue, i quei due uomini forti che portavano in braccio i fucili con tanta superbia e ce ne facevano sospire andando a quelle statue. Scorrendo con l'occhio tutti i nomi di mascoli che c'erano scritti, pensando a quanto bene Dio si aveva perso dalla guerra. E n'aggia sentito sospire, passando rasa rasa con le case, n'aggia sentito sospire a tutto l'ora del giorno e specie della notte. E quante volte sta capa mia fragile ha pensato che a quel monumento gli occhi più morti avevano fatto più vivi, che morivano a poco facendo vecchi da casa senza sposare. Avevano fatto più vivi che parevano più morti di morte dalla guerra, che pure allora era una guerra silenziosa, senza uomini, senza distrazione. Non era facile per loro. E non era stato facile per nessuno, allo posto loro. Una guerra ad un succedere mai niente. Una guerra che t'accidia senza manco uno sparo. Come quella zitellone, una notte con il cielo ricchino, chino di stelle che parevano a miniere di pietre preziose, con un freddo che ti gelava dell'anima, si è gettata a basso un barcone su i pietri accatti dalla strada. Che vergogna per la famiglia, diceva. Ma quale vergogna? E quella vergogna che duria, didda, andupietto quasi. Nessuno ha può mai sapere, nessuno ha può mai sapere. Madonna mia, fammi vide, pregavo sempre a Madonna. E finalmente l'ho visto, una volta, l'ho sprovvista. E stavi portando dopo che i figli hanno una piccola malata, e te, alcuna volta mi ha giustinato, come un'apparizione. Avevo quei capelli, nevori, lisci, lucchi, come due castagni, a pelle, pure scura, un vestito color marrone, e lo stesso colore di vestito marrone, in scarpe, con quei lazzi. Ah, era proprio bello, innamorato mio. Potevi qui da bocca, non può cazzoccato al lato così. Come alcune che pare che ti sta fissiendo. Appena mi ha stennando così alla sprovvista come è stato, ma gli ho fatto rossa, rossa, rossa, faccia come hanno cancherietto. E tanto che mi bruciava la faccia, che avrei inzicato l'acqua fredda della fontana, tanto che mi bruciava, che avrei gestito pure la fuma della fontana, quello io adesso ci anziccavo. Ma certamente è stata con c'avevo la fontana, nanda mia, c'avevo fia, e gli ho inzicato l'acqua con fia. E così mi ha pure rascato la faccia, e mi ha bruciato ancora più assai la faccia. Puh. Qua a capa, inzicato un tuo figlio, ammucciato, non mi dice niente. Ma almeno sentivo tutto. La camminata, la botta con la chiusa la porta della macchina, il rumore del motore, i petri che si muovono sotto la ruota della macchina, e così via. Allontanò la macchina, ma gli ho fatto coraggio. Aggiù cozzato la capa, aggiù guardato fino alla curva. Quando poi la macchina è sparita, via dalla curva, aggiù è rimasta sola, solo da quel momento mi aggiù accorta. E come mi sbattia forte il cuore in pietro. Ma così forte che per un momento mi aggiù messo pure paura. Mo si ruppe, aggiù pensato. E alle gambe vino tremulizza così forte che mai da vita meno tremulizza così. Ma voglio sposare con due, ma voglio sposare, voglio, voglio, voglio, questi è quelli che saccio, come voglio, pure io senza accidente, non voglio più sapere niente. Ah, gli dice che devi parlare subito con papà, come non l'amo. Non mi importa Tresina, noi non potevamo più aspettare un matrimonio Tresina. Ma come ci parlo con Dio? La femmina non ci parla da solo con l'uomo, non ci parla da solo, e manca mia gente, non ci parla del basta, perché uno guarda, manca un faccia un uomo, una femmina con una passa in mezzo alla gente, una femmina cammina con la capa fasciata. Fa che conti Pietro Pender. Non sapevo che aveva fatto. A quale Madonna mi poteva consigliare? Sulla terrazza, solo con un segnale alla terrazza ci posso parlare. E se stavolta padre mi ci incappia, avevo da buona che mi ci accide e mi ci lascia di morta Pender. Ma Tresina non la posso aspettare. Un voglio finisce signorina, fa vecchia andare a casa senza sposare. Un voglio finisce zitella, sospira tutto i giorni, specie da notte. Un moglietta abbascio un barcone sui petri accata dalla strada, fa la vergogna che mi dole tempietto. Allora comincio, sire mattina, in giano, scinna, quella terrazza, raccoglie l'inzulo, spanno l'inzulo, sbatta a prule di panna, sire mattina, tutti i giorni, affinché che dillo un caos lo vecchio mio, affinché che dillo mi fanno sorriso, affinché che dillo un piglio mi viene a parlare, solo tanno, solo quando dillo mi viene a parlare, mi può passare sta paura che tengo in tuo pietro, sta paura che mi fa disperare, la paura che potevi vedere un'altra femmina che si inzicca in la macchina, suia. Da terrazza stava aspetto un segnale. A volte sento un rumore e per poco un gatto morto a pendere buscando. O se no il papà, che se mi ci incappa, mi ci accide e mi ci lascia da morto a pendere. Quant'anni poteva avere? Maria, la sua era meglio grande, si è sposata, che aveva già 18 anni. Un figlio Antonietta è nato subito dopo, allora poteva avere 19, 20 anni, sì, avevo più o meno 20 anni. Andavo sento un rumore di pietra dalla strada, sbatti i panni con le mani, sbatti i panni così forte come se avrei cacciato tutta la prula del mondo. Devi andare alla macchina, non fa niente, non dice niente. Parto con la macchina e se ne va. Ma i saggi, capito? Ha capito. Ma guardate. E stavolta pure io, gli guardate. E mi ha tolto quello tremulizzo. Da tutto il cuore che mi sbatte forte. Ma è stata la prima volta che ne abbiamo guardato, l'uno con l'altro. Ha durato tempo i mangiare la nuce, ma se potere in pianere scendere in montagna e ballendo come una crapa. Un giorno appresso mi faccio più coraggiosa. A fin di che ingappa una crapa che si aveva allontanata, passo proprio andando a casa sua. Vedi in la macchina, mi guardo, mi fanno un sorriso. Io passo qua a crapa, mo la serrita, penso, mo parte. Ma la macchina sta ferma. O dice che te sta ferma dalla macchina. E guarda, non ci posso credere che sta guardando. Non ci posso credere che sta guardando a me. Non sta guardando i frusci, con l'albero, i casa, tutte queste cose che stanno qua attorno, ma sta guardando proprio a me. Aggiù stato contento che avevi la giacchetta. Con pretesto che faceva fredda quell'ora mattina, avevi la giacchetta russa che mi ha fatto questa stella per la Madonna di Pollino. Che mi piaceva come stavi con la giacchetta mia, mi stavi troppo pulita. Ma io ero così contenta, ma così contenta che Dio mi abbia guardato. Che si putio, ma ora mi sa ballare mia zipie con la contentezza. E un giorno appresso ancora, quando va a cogliere i conigli, arriva all'ortalluzzi e te, mi pigliano scanto, qui ci trovo una volta andando a mia, a dire, oh cuore, mi comincia a sbattere, quando potete fermare, una volta con un tremolizzo, che conosci voi, subito mi guarda attorno, perché se c'è qualcuno che mi vedrà solo insieme a Dio, la vita mia è finita, per fortuna non c'è nessuno. Te ne mi guardi, mi ride, io provo un già faccio, lo guarda, pure che volevo un già faccio lo stesso, che mi vergogno. E tengo la capa fasciata, e mani che si stringe una presa sui vesticelli. Mi vergogno pure perché un saggio caglia, dice. Te ne mi guardi, mi caglia, dice. Te ne mi guardi con quella bocca un po' cazzucato lato così, che pare sempre che ti sta fessiendo. Con una così grande, mi anzi niente. Ah, che è proprio bello. Bello, un innamorato mio, specie questa sfera di sole che illumina la faccia, per conto spose, tocca prima a sorma, e padre t'ha detto, che mi avete dice padre? I miei te avete dice picchi, eh? Non t'ha detto, sì che mi ha detto, ma è stato tanto tempo fa però, vuoi che ne sposiamo, io e tia? Ah, per me sei di piedi con tutta la terra intorno, per quelli che vi ha detto. Sa da sposa prima sorma. E che gli è come, perché tenesi paura? Sì, tengo paura assai, perché se padre me ne vede, mi ci accide, mi ci lascia da morto per terra. E pure tu passi un brutto quarto d'ora se padre me ne vede. Mi cavo se me ne vado, come non l'ambo. Non ci voglio rimanere solo insieme a Dio, non voglio che pensate male. Io voglio fare una buona impressione. Ma quei pochi momenti che gli ho passato insieme a Dio, è stata la cosa più bella che mi è mai passata. Non mi ci hai mai sentita così. Non sapevo neanche parole per dire come era che mi sentivo. Un attimo a scuola per dire come si chiamava quella cosa che sentivo. Non sapevo. Sapevo solo come una attorno a me, non era più come prima. Non era manca nata cosa diversa, perché era sempre lo stesso mondo, sembrava la stessa cosa. Solo che io non vedo più come prima. Però non è che era un mondo che aveva cangiato, solo le orecchie mie che viene cangiato. Non sapevo come potevo spiegare questa cosa io. Non conoscevo le parole per dire come era questa cosa io. Potevo dire solo che un mondo mi piaceva. Potevo dire solo che per la prima volta in tutta la vita mia un mondo mi piaceva. Che mi sentivo buona. Confacevo quello che diceva padre. E mi sentivo buono, che sapevo che se il padre mi scopriva, mi ci uccideva, mi ci lasciava da morto per terra. Ma mi sentivo buono stesso, non mi ci avevo mai sentita così buona. E ballavo in galera come non avevo mai ballata quando ero nata. Perché per me tanto, io non sapevo neanche se quello che facevo era bello o brutto, l'avevo fatto e basta. Io pascipiego perché il padre mi diceva pascipiego. Io andavo all'orto perché il padre mi diceva andavo all'orto, stavo andando a casa perché il padre mi diceva sta andando a casa. Mangiavo quando avevo fame, vivevo quando avevo sete, avevo paura quando sbagliavo. Avevo paura. Sempre. Non sapevo neanche dire se era bella o brutta. La faccia mia era bella o brutta, non ci ho mai pensato prima a questo. O stesso, non sapevo neanche dire se prima un mondo mi piaceva o non mi piaceva. Sapevo solo che un mondo era una cosa speciale. Sapevo solo che mi guardavo, mi faceva ridere, mi faceva chianci, guardavo un dritto fame, un dritto sita. Mi sentivo leggera, ballavo e mi sentivo leggera, senza peso, senza carne. Non mi stancavo mai, ballavo e non mi stancavo mai, ballavo e ti dico più forza di prima, ballavo, ballavo, ballavo e veniva la tua mano. I giorni prima pare che non passano mai. Hanno passato 2 giorni, pare un mese. Sera e mattina andiamo sulla terrazza, ma niente, non si vede, segnale non arrivano. Allora Taluzzi, aspetto, più tardi che posso, ma dico, lo stesso non arrivo. Una mattina, prima mi fanno un segnale, poi aspetta a Macante. Mi piglia una brutta malinconia da quel giorno. Non tengo più voglia di fare niente. Ma stavi così buono. La tua aiuta finisce tutta quella contentezza che avevo. Pensavo, me ne capacitavo. Mo io erano se una tota nata mia, una tota all'uarta Luzia, alla sprovvista, come sempre. Perché non è venuta la tavola? Sì che è venuto, ma gli è rimasto ammucciato. Volevi vedere se incontravi sa tua me. Io non ho aiutato mai retta a nessuno, i cammini che mi fatti mi attacchio, qua a capa fasciata, fa che con dei pietre per terra. E se mi parla da un so con un capo, via più fatto suo, sono una femmina onesta, io. Mo saggio. Sai che gli sta padre da ieri? Presto ne sposavo. O sapevi che dicevo vero? O sapevi che avevi stato veramente a tuo padre? Una via chiesti mia, ma avevi stato veramente a tuo padre? Fusa a 7, vicino a me, però troppo vicino stavolta. Io tengo paura. Un usaccio che gli fa, che non gli fa, e chiudo l'occhio. Sento che dico, mi mette una mano dietro il cuore, può mi tire, e mi danno paso. Ma mica mi danno paso come quella zia mia, qua, su la faccia. Mi danno vaso mucca. Aiuto una reazione, così l'andra satta, hai sbuttato lontano, ma no, e gli ho detto, ma me ne dai che tengo una masciata. Tu non fa niente, eh? Tuo pazzio segnala quando è arrivato un momento. Ma no qua, ne vediamo arrivata ascisa dopo Cirasaro. E se ne va, poi si ferma una volta e un da mette quella giacchetta rossa che guida si vede troppo come è venuta sparita e rimanga come una incantata quel vaso o prima della vita mia è stata un'emozione troppo grande per mia, troppo grande per quanto sono cuzzina. Non sa per nessuno che tenga appuntamento con uno, però saggio che se faccio uno sbaglio sa per alcun paese la vita mia è finita. Di giorno appresso parla Magist, si gira da capo, poi dice che ne vediamo. Su una gira di niente da macchina dice che non ne vediamo. Qua a capo ha girato donne mia, loro vuol dire che ne vediamo. Ma quel pomeriggio all'orto all'uzio non mi sento come all'altra volta. Ma no, come sento il cuore che mi scoppia. Qua tremaretta in di gamba, come la se mai qui da tremaretta in di gamba. Ma quel pomeriggio all'orto all'uzio mi sento come l'altra volta, mi sento diversa, mi sento come se avesse succeduto alcuna cosa. O che ha detto, un ne basta, mi passa sulla mente, e io non tengo coraggio di dubitare. O non tengo coraggio di dubitare, se Dio si arraggia. Non è che uno tenga fiducia, Dio sa come ha da toccare, fino a quando abbiamo sposato. Ma tengo stesso paura che Dio con gli uomini all'orta luzia, sola, niente piccolo. Aspettava una banna di arrivare dall'alto. Ogni volta che lo vedo mi fa scordare tutto. Perché è troppo bello, bello, innamorato mio. E non avevo mai visto, viene come a goi, con i pantaloni, come vanno i modi, velluto, qua a piega, non vogliono bianco, con i maniche longhe. Quindi qua a V, qua. A donne si vedono tutti i pili campietti. Ah, è proprio bello, bello, innamorato mio. E non avevo mai visto bene così, non avevo mai visto bene come a goi, innamorato mio. non voglio più pensare a niente. Non avevo mai visto Biedo come a voi, un amato mio, non voglio più pensare a niente. Non voglio solo che Dio s'arraggi. Non assettiamo un terra, mi danno un vaso, mi poggio una mano sulla gamba, però io mi sento, non mi ci sento buono, non mi ci sento giusto. Non mi ci sento giusto proprio con le cose che sta facendo Dio con me, perché non sai che poi fai firmano con lui, ma io non l'ho mai visto, lui fa mamma con padre, ma io. Sai solo che padre ma ha credo quando sbaglia, ha credo stesso quando sbaglia. Sai solo che padre non ha mai fatto quelle cose che sta facendo Dio con me. Sai solo che mi ci sento giusto con i giorni, la sola, l'ortalluzzo, i miei zipi, quello che ho detto. E ho fermo. E metto la mano in pietra e ho fermo. Ho guardo. Ma lui è Gesù. Non so più come a due castagni. Su come a due spine, pungente. E pure la bocca sua è cangiata, non è più azzeccata, lulato come quando pare che ti sta fessendo. Ma è tutta quanta azzeccata, è tutta quanta strinta, è tutta quanta la pietra. Guarda, e pure dire mi guarda, ma mi guarda raggiato, per quando fai toccare? Io tengo paura. Tengo paura che se ne va. Tengo pure che mi ci lascia da mia insieme qui piccoli. Tengo pure che mi ci lascia fa vecchia andare a casa senza sposare. Egli è troppo biedo. Biedo innamorato mio. E non avevo mai visto biedà così. Non avevo mai visto biedo come a goi innamorato mio. E non voglio più pensare a niente. Non avevo mai visto biedo come a goi innamorato mio. E non voglio più pensare a niente. Non voglio solo cadendo. Sarraggi. Prima e se non sono contatto sono rotto, il sangue mi cura, mi anzigano, mi pare una cosa spaventosa e di domani mi guarda e quando mi guarda fa la faccia sorpresa, perché non sospettavo dove vedo quello sangue, che si pensava che avevo stato qua tu e meno solo perché facevi via con la sola, non avevo detto di lui stesso, non avevo visto nessuno quando mi ha guardato a muccione, non mi ci sento buono, non mi ci sento giusto, non mi sento manco più coraggio di guardare in faccia. E guardo in terra, nato avuto quello destino, qua a capa fasciata, a contare i pietri per terra. Poi, una mano mi piglia di qua, mi causa dalla capa, ti voglio bene, Pascalì, puri, dico una tutta priata, puri ti voglio bene, ma così assai quando se ci manca spiegare quello che sento per te, è una felicità che mi piglia tutta la persona, niente fuori, cane e corpo, non capisci niente in quel momento. E niente, avevo capito, niente. Non avevo capito che avevi detto ti voglio bene. Poi dice grazie, tante grazie. Tante grazie perché avevi fatto sentire grande. Tante grazie perché avevi fatto sentire biedo. Tante grazie perché sta povera ciota aveva sacrificato la vita sua per dirlo. Perché se mi ci aveva incappato padre, ma qua mi ci accidì e mi ci lasciava di morte per terra. Tante grazie perché avevi fatto sentire un re. Per questo che avevi detto ti voglio bene. Poi dice grazie, tante grazie. Puri, io dico una tota priata, ma se mi pigli se tu, nessuno mi pigli di più. E beh, fa dito, sposiamo. Non ti preoccupare, che sposiamo. Sposiamo, dici entramente che se ne è. Sposiamo. E se ne aiuto. Ma gli ho strusciato con un po' di erba. Mi anzigamma di una brusciura che mi manca. Avevo pure la veste macchiata. Avevo portato pure i piedi con la stante. Camminavo come un bambaluto. Ma che gli ho fatto? Non sono più una guagnonetta, non sono più un dato, non sono più niente. Non mi sento tranquilla. Fino a quando mi sposo. Quella notte un giudo lui, ma ho avuto quello che ho avuto, non sono tranquillo. Tengo paura se facciamo, pur se non facciamo, perché se facciamo per accadere non importa più niente. E se non facciamo diventa collerico. E così lo facciamo. Pure la seconda volta. E ancora mi faccio male. Ma non mi importa quello che mi fa un corpo. Mi importa solo che te è tornato, mi importa solo che te sta qua, non mi importa quello che mi fa un corpo, non sento quello che mi fa un corpo, non tengo un corpo io a Dio, tengo da capo di pensieri dall'anima. E tengo pure perché un corpo, un capo se lo caccia sa forma dall'anima, un capo se niente, un capo se l'aria. Poi terzo appuntamento, passano 6 giorni. Eppure tanto facevo. La terza volta facevo. Però un uomo aspettava, che se non sono accorgi di gente. Ah, ma aspettava fino a quando? Fino a quando non ti faccio segnare. Tu, aspetta un segnale, aspetta, aspetta, aspetta un segnale. Hanno passato 15 giorni che aspetto un segnale. E non mi sono più un tatto. Senza due vidi, i giorni pare che non passano mai. In un momento pare che arrivi, in un momento no. Tanto volte pare di, dopo un ne. Una mattina da stardo mi sento buono. Penso va a durdu l'etame, ma quando mangiamo io adoro la carne che mi provoco stesso. La minima cosa mi innervosisce, piange senza ragione. La gola è così stringa come fosse manco gnotta l'aria. O mi senti con sé faticato, mi senti fanenti, è tutta la natura mia che sta cangendo. Allora, come faccio da nessuno, ma andare a strada, ma a pasci, mi invento sempre con te, non sa più che mai a mente. Come ricordo più i giorni di mestruazione, un giorno preciso, di essere da casa la mattina con una pressa che pare che si mangi, parto qua, ma che ce la sei sulla prula, rieti, dillo, sulla prula, rimando a rieti, sulla prula, sulla prula. Mo io non mi so, cade l'uno vita, a parte la mattina, sempre con quella pressa che pare che si mangia. Mi terrà abbasciato, terrazzo, può fare un nemico, c'è di parlare con Dio, io con Sergio che gli fa, senza Dio, io che gli ha pensato sulla, io che fino a 20 anni gli ho pensato sulla fatica. Arrivata la sera, lavo panna, stendo panna, appena che Dio non torna alla casa, ietto una pietra, punata, nata ancora, appena che Dio mi guarda, ti voglio vedere, mo stessa, lo guarda Luzio. Gli faccio capisci, scappa l'ortaluzzo, può girare più lungo, ed arriva, mi abbraccia, mi sbutta da l'erba, tocca, stringe, abbraccia, va, dice. E io fermo, gli metto la mano in pietro, fermo, non è per questo che ti hanno chiamato, ti voglio parlare, dopo parliamo, fa dito, treniamo un braccio, perché? Non potevo parlare solamente. Io che quando ti vedo non ce la faccio sta fermo, fa dito stringendomi in pietà, gli ho fatto per amore tu. Su 3 volte che gli ho già fatto per amore tu. E stavolta voglio solo parlare. Ma te non si fermo. Ancora tocca, stringe, abbraccia, fa, dice. Non tengo più mestruazione. Così che si ferma. Cangia colore. Non faccio niente, un tocco, un stringe, un abbraccio, un fa, un dice, mo si è passata, poi gli fa tutto. Di non parla, gli aspetta fino a che di non parla. E beh, fa dito, sposiamo, non ti preoccupare, che sposiamo, sposiamo, dici entramente che se ne sposiamo, sposiamo, e se ne sposiamo veramente, però faccio in cappello le piedi, sposiamo presto, e dico stringendo le piedi, ormai hanno passato 2 mesi, che dica padre, ma mo che si vede la panza, nato di non parla, nato ti aspetta fino a che di non parla, e beh, fa di do. Domani ci parlo, domani, vengo. E ci parlo, ci parlo, ci parlo. E se ne aiuto. Ah, gli ho creduto. Perché avevo bisogno, tu credi. Un giorno appresso andando a rire tutto il tempo. Pulizzando la strada, a cui diceva che sta male, porti piccola pace, va andando a rire tutto il tempo come hanno mula fino a che fa sera. Ma di niente. Prima addormo, andiamo sulla terrazza, è andata potenente. Io metto un dulietto sulle acque ricchietise, e tu stessa, andiamo, è andata sulla terrazza, è andata potenente. E chiange. Angeli stelle, lo sentono, lo chianto che fazzo. Ma non lo vedono, quello che fazzo. Io chiudo le orecchie, la nuvola. Tu scuro da notte, da pietra, più grosse che c'è, ma mi incontra la panza sempre più forte, fino a cui c'è stato sangue, un altro sangue però, sangue da ferito, sangue da paccia, ma perdona, figlio mio, non avevi capito tutto, quello peso che avevo da panza. Torno in dolietto senza piglia sua, sempre la stessa canzone che mi c'era in casa, bene domani, e son bene. E che faccio se dedo un bene? Che ne faccio la vita mia se dedo un bene tutta la notte sta canzone? E la mattina appresso ancora niente, la sera appresso niente tu stessa, e così di giorno appresso, mi mangi in mano, ma è troppo tardi, ha finito la speranza, ha finito tutto, gli ho perso tutto, sulla prua, la strada, mi è rimasto stupito, sono da pazzo. Qui è che mi può aiutare? Con cui è che ne posso parlare? Su 3 mesi, come vedo più, 3 mesi. Stavo venendo con mamma a tagliare i cedestri. Gesù in cacciapudde, dice quelli che porta di lettera. Un Gesù a nessuno, fa mamma. Ma se vuoi la lettera, nada qui, fa mamma. Viene la lettera di un figlio, fa quello. Arrivederci, arrivederci. E nella lettera d'America, che la conosce, attorno attorno a quelle strisce rosse e blu, che conosce tutto il paese, che c'è Cinecchino, paese. E nella lettera d'America, fa sa mamma. Sì, e nella lettera d'America, fa mamma. Se ha scritto figlio in Cacciapurdo, e nella lettera d'America, per forza, che dà, aiuto figlio. Su 3 mesi, che aiuto dà. E cade in terra. Sente quelle parole, cade in terra, svenuta. Se ne hanno accorto che erano 4 mesi. Eh sì, ero i 4-5 mesi. Capo svenivo, cadio, mi faceva pure malamente. Forse era più la rabbia con il comportamento della gravidanza, ma svenivo, cadio. E se ne hanno accorto. Quando poi ho cominciato a mi sentire più buono, i miei, se ne hanno accorto. Eppure, ien si è vista proprio. A principio, avevo provato a mucciare, ma poi, che potevo fare? Quando la panza si è cominciata a vedere, non potevo fare più niente. Gli ho detto, serve da china, se ne è caduto ponte. Noi giorni che la mia panna da bagnarola, senta, Padre Maria, tu non tengo coraggio di guardare, tu sei incinta. No, papà, con un video che è ingrassato. Aspetta mamma, te che mo bene ti guardo in birto. Se ne va, non mi tocca manco non capire, ma io rimango paralizzata. Tanne se ne è venuto padre, ma che subito arriva mamma, mi gira da turno a turno, quando un cuore, un euro, sbottone di un bietto. No, ma mi vergogno, se non fai tu fazzì. Allora, mi sbottono, un bietto. E te ne sei mestruazione? Sì. Alle prossime mi chiami? Alle prossime. Ti chiamo. Ma tanto loro, usa pieno già. Uno viene bisogno da prova, l'avevano già capito. Frate, ma manco mi parlava, manco mi guardava, che se uno spostava io, vedete che camminava dritto, mi veniva ancora da fendo come vedi. Mamma mia, è stata quella che è stata. Mamma gli ho fatto meraviglie sore, ma grande, che quella mi vedeva in una maniera che manco sapeva la pesta. Tresina, la sorella non sapeva come è da fare. Come si avvia da comportare? Quando mi toglie il vento, quando no. Usaggio, non è bello quello che avete fatto. Non è bello mai. Ma voi cosa? Si aggiustano? Loro? Si aggiustano? I cosa? Noi danno a morire. Thank you. avvenuto pure canatema, o marito da sua ramè più grande. Sono chiuso in da camera di Liet, parlano, parlano, parlano. Dice che tu no, tu non ci puoi stare tutto né, non so cose che ti riguardino. Veramente che parlo. Qua ci battono lo fuoco, poi i munni mettono un tavolo, così quando hanno finito mangiamo. O si mangiano loro che mi decongestavo, loro che mi faccio solo veleno con loro. Ma vicino alla porta mi chiede chi ci vuole quei patane, senta padre ma che dice, guna da fa, solo guna da fa. O fazzi, fa canatema, no, dice Antonio, fratema, uno della famiglia da fa. O fazzi, dice Antonio, però non ha da rimane nessuno. Allora noi abbiamo un paese, fa mamma, vuoi il tuo paese, fa Antonio. Che mi ci faccio qui patane, fazzi, tutti si fermano, tutti mi guardano qua, faccio ingannata, ma come mi viene mai vista, passano i secondi, mi parlano pure, mi fanno paura. Poi Antonio, gli scappa da risa, ma come ci fa a scorzi qui patane, dice da mia, che quindi piace pure a te. No, io non ne voglio, non ne tengo fame, faccio per voi, risponde, me ne vado. Però mi ha fatto piacere che Antonio aveva avuto un pensiero per me, che aveva pensato di mangiare a cose che piaceva pure a me. È stata la prima volta che ha fatto una cosa per me. E da quel giorno, per la prima volta, anche un sorriso, quel giorno, per la prima volta, un era più una fantasma. Forse le cose si aggiustano. Il giorno appresso non c'è nessuno. Mamma e papà nel tuo paese. Sorma, pigli in cucciuccio. Io, a cucci patana allo forno. Hanno passato almeno 5 mesi con su contatto. Sento una cosa che si muove dalla panza, scando, mi mettono nella rasa, non so ciò che ti fa, sto impaccisciolo tutto. Ti fa male la panza, Fantoni, frate, mi viene tutto uno scanto, c'è cioè, sbattuta al piede del forno. Ah, si sì, capito, il piede avete disaggiustato, Fantoni. E usavi che c'è sbattuta, picca la panza, è più grossa la stanza, esca per la risa, se si risiede. E poi dice ancora, non te ne pigli la collera, camo a tia, ci penso io. Ha fatto la stessa risia e ha detto pure che Dio che pensa da me. E stavolta pure a me mi venne da rire. Ha voluto appiccicare la sigaretta, ha aiutato il carbone con la molletta. Entramento con la vecchietta penso che forse le cose si aggiustano, forse finalmente le cose si aggiustano. Ancora non avevo finito di ridere, che mi sento un'acqua fredda che mi cola da in capo. Non è acqua però, è una cosa puzzolente, come quella cosa che usano fa luce. Manco mi veniva in mente un uomo del petrolio che gli ha vampata tutta quanta, via diventata uno fuoco, bruciavo tutta, tutta, tutta, mano, braccia, spalle, piatto, tutto. Mi fatto che mi in capo, ma muccio io razzinante, ma il fuoco passa lo stesso. Mi brucia dalla faccia, brucia i capelli, sento una puzza di petrolio che mi mangia dalla gola, grida frate, mi fa una cosa, io si muovo che stavo morendo. Ma ti lo risponde, vedi una Mariana ferma che sta andando a mia, con una bottiglia a mano, e non ci crede a quelli che vedi. E non suono brutto, cerca la porta e ne fa chiudere, faccio uno salto in via la porta per primi dini che non si aspettavano, salta così, ma la paura che mi fa dire, che mi fa la forna da l'urti, la paura che mi porti, la paura che mi fa correre, correre, correre, correre, correre, correre, a fine compassa la portifiera e gli sta fuori. Qua la veste che mi ha pigliato fuoco. E pure i capelli, la pelle, tutta la persona che mi ha pigliato fuoco, tutta la persona che bruciava, che friava, come a carne arrostuta e puzzavo pure come a carne arrostuta. Mi incappo piccunucci, bascia capo un bietto, marravoglio tutta quanta, strinta, strinta. Poi veni gente, mettono un po' di panna per morto fuoco. Poveredda, poveredda, dicono, mi strascina la fontana. Ha sentito quell'acqua fredda in gordo e poteva morire. Non avrò mai potuto pensare, no dolore, ah così. E poi gli è svenuta, poi non ha sentito più niente. sul 00 della macchina che trocculiava subito fuori dalla strada. E quando poi mi ha svegliato, mi ha trovato andare lì a spedale, qua a capofasciata così. Come vi è rimasto quando alla fontanetta, con una puttichiuga usata a capo, capì, un mento, attaccato lo pietro, che prima mi ci aveva ingollato, un mento lo pietro. Il dolore mi aveva paralizzato, non ci vedevo quasi più, mi faceva male tutto, mani, braccia, spalle, pietro tutto. Quell'infermiera mi faceva paura, quella grigna, aspra. Manco mi guardava, mi scippa pezzi di carne, anguido come quando cotti i patani, ne tiri, si scorzi. Mi sbatto in cuore con le cazzo quando è sì, lì non do fuoco. Mi grido con tutta l'aria che tengo in cuore per dire se ne screa fin da come mi sento. Per dire poter morire. E usaccio quello che pensa, sta porcetta, sano, bruciato, non ho fatto buona, così se mi barda, sta con lui appena prima di sposare. Uno dice a parole, ma dice con lui. Per dire poter morire. Pure io voler morire, per la vergogna, per il dolore, per la sorte mia. C'è un uomo con una veste bianca, pensa in un medico, dice, ma non capisce quello che dice. E poi se mi ha preso quell'infermiera, coro crude, per coro crude io non esisto. Su bolietto un miglioricetto, come stavo, mi faccio male. Mentre a piedi, capo a pennini, fianca, tutti i parti tengo ferite, ma che vuoi dormire da quelle condizioni? Ma come si può dormire qua a capo ingollato lo piedi? In un momento che piglio ricetto e coro crudo mi fa gauzare. Cammino qua a capo fasciato, andando a lui e chi cammina me, con muzzichi e pavimento. Coro crudo mi porta andare in un bagno, mi dice Capuzzi in una maniera che tocco lo stomaco. Grappa fontana e me lavo qua a Pompei e gli è da morire, da morire. L'acqua mi taglia la pelle, pure la carne, grido, chiancia, preghi si fermare, quell'acqua fredda, gelata mi taglia stozzi di carne di angurdo, piezzi di veste bruciate che fanno andare con un varone, c'è una puzzi bruciati, i carne arrostuti, i fumi, che ancora crudo, un basta che tenga quella maschera in faccia, a puzza, passo tu stesso, tu sì, ci esse ma maledici. E poi mi portano a tutto un doulietto e mi mettono un lenzuolo, così non mi vede più. Crepa, mi dice con lui, crepa. E io volevo crepare veramente. E poi arriva veramente un momento che crepo. Dorme, si fa tutto scuro, tutto scuro. Non sento più niente, solo una pace grande. Che dopo quelle sofferenze, cosa aspettava da baciare così? Ma non era sulla pace, era tutto, come non suono, birro che manco. Mi devi andare a mangiare senza che via fare niente alla cucina, mi devi andare a vivere senza che via l'acqua fontana. Dormivo sempre nella pace dell'angelo. Nessuno mi credeva, mi dicevano solo, mangia, vivi, dormi, riposa. Sicuro, avevo tutto paradiso. E se avevo paradiso, avevo stato bravo, non avevo fatto manco le cose brutte come dice loro. Con paradiso, mica San Severino Castrovidere che passa la montagna era su paradiso. Ne ha fa strada! E quindi erano paradiso fatto per avere a paradiso, eh? Con l'angelo che faceva l'angelo a mestiere, perché faceva le cose che appena fa. Che con Gesù non si scappa. Con Gesù c'è poco a sbagliare. Eppure l'angelo che stavi attento a me, o se picca con Gesù c'era poco a sbagliare. Capù, l'angelo che stavi attento a me, aveva la stessa faccia di stella, ma aveva la stessa uguale precisa. E io non dice sempre all'angelo, tu tieni la stessa faccia di stella, una tizia da me, che si chiama stella come stelle che stanno in cielo, tu tieni la stessa faccia da sua. Capo, io non ci ha fatto più l'angelo e mi ha detto che dito, una via stessa faccio questa stella, mi era proprio dito, questa stella. E posto a 2 euro, non ero paraviso che pensavo, ma la strada che addefra, un peccato andare alla costa senza luce, senza niente, quando ho fatto scuro sulle rupe, senza notte. Così mi ha detto una volta questa stella, capo, poco non ci avevo morto buscando. Che mi potevi dire pure, a poco mi ci potevi fare pure abituare un poco prima. Ma solo da mi aveva potuto portare con marito, come ci aveva voluto, con dire dalla casa. Casa deve sempre sfutto. Tu che ne vuoi fare? Perché dice amici che? E allora gli abbracciate, contenti che mai, perché dite a Zastedda, per me era come un angelo in terra, che voleva troppo bene a Zastedda, io. Quella zia era da me che si chiamava Stedda come Stedda che sta in giro. E poi mi ha contato tutto. Mi ha contato che quando intorno a me si è fatto quello scuro, tutto scuro, dite, o mi aveva mai lasciato un momento, quando arrivava, a cominciare la mattina fino a quando arrivava da Asir. Da mattina si presentava all'ospedale, faceva tutto. Non potevo fare niente, non potevo sforzare mica. E dopo tre mesi all'ospedale, mi ha portato da stad. Da mattina si presentava da stad e mi portava tutto. Non potevo fare niente, non potevo sforzare mica. Infatti si faceva preparata la casa e poi portava qua. E me ne ha portate con decine da mangiare. Poi sapevo che a me mi piacevano i laghi, no? Quando poteva mi portava fuori i laghi, mi ha portato i laghi, la poveretta. Certi faceva come poteva, faceva come voleva Dio, che conto, non ce n'era. Allora, una volta gli faceva gli uggi, un'altra volta qui fa solo, rara volta qua scorda, si faceva come poteva, la poveretta. Non era manco normale, tutte quelle lacrime che volevo. Che volevo? Perché era incinta. E mo viene fatto pure i 9 mesi. E siccome era andata a stare, gli operatori di andare a stare, c'era il fieno, c'era la paglia, c'era tutto. E Zastedda ha portato pure la lavatrice. E poi sto quattro gatti sullo suolo per ne fare compagnia a Zastedda, ha portato pure un porco grosso che manco e un cane a caccia affilato come uno sparto. Dalla porta si vede un cielo lucente che pare che viene appicciato, tanta la luce che c'era quella notte. Ma perché così vicina all'una di quelle stelle che pareva che non era vicino, che stava succedendo? A un tratto un canacaccio mi guarda, come quando vedeva uccidere, e spetta, tiso, sparo di cacciatore. E una volta la corte data, la ventra, e una lama, tagliente, mi taglia tutta persona mia dolente. Subito mi guarda intorno, qui è che è trasuta la scorduna, e mi ha dato questa corte data alla ventra. Su di stile si ci accanisce d'ancora contro me, stavolta mia gli capo finisce do tutto l'opera sua. Alla latrice, sposta subito lenzuola, si chiede, mania qua minza, fino a quando non si cava in piedi con una cosa ciglia di mano, che grida. È troppo zinno, figlio mio, è troppo zinno da luce da notte, ma come si può difendere così zinno con tutte quelle lupi che stanno da fuori? Sta buono, fa la lavatrice, sanno come un pesce, come vuoi chiamare? E come volevi chiamare io, che mi sentivo come volevo dire io. Dice un uomo, insistì la lavatrice, dice un uomo, o prima che ti venga in mente. Se proprio gli dice un uomo, a Giuditto, a me mi viene Saverio, a Giuditto, Saverio. Ma quel bravo guagnone Zungazio che aiuta in Germania e ci ha fatto fortuna. Allora lo chiamiamo Saverio, fatta la lavatrice. Saverio, ma quel bravo guagnone Zungazio che aiuta in Germania e ci ha fatto fortuna. Ma mi sentivo così tramortita, pure per i dolori che mi mangiavano i carni, che mi pareva tutto non suo. Non sapevo se ero vigliante o puramente dormivo. Non sapevo se vedi veramente a Saverio. Ho subito un sonno. Eppure un porco grosso che manco, non sapevo, subito veramente pure a te lo vedevo stesso un sonno. Che quello porco pareva che stavi a parlare a Saverio mio. Eppure Saverio mio pareva che assoliava a dito. Ma patrò che voleva dire quello porco c'è da figlio mio, vedendolo così di ferito, che pareva più preoccupato in uomo per quanto era preoccupato. Pareva che dice, ti mi preoccupo io, ci penso io a te da mangiare, ci penso io per quante volte ne puoi avere bisogno. E se non ci basta io, ci basta il figlio mio, i figli miei. Che noi siamo una famiglia di 7 generazioni, sai? Un porto che l'hanno morgono e Natale morannato, come succede a noi in questi tempi. Capù? Ognuno te ha la disgrazia sua, dicevo porco. E noi abbiamo questa disgrazia e morì ogni anno sempre nello stesso periodo. Capù? Continuava. Io non dico sempre ai figli miei, da sti giorni disgraziati, a capi dicembre e gennaio, non gli siete fuori. Stavate chiusi da casa, non gli siete fuori per nessuna ragione. ma poi la tanne che hanno stato chiusi da casa, hanno morto tu stessi, o hanno morto proprio perché hanno stato chiusi da casa, sai tu? Capù, continuavo dopo burco. E pure una cosa curiosa sto fatto, che moriamo sempre in due stessi periodi di l'anno. E è curioso sto fatto, che moriamo proprio in due periodi di Natale, quando nasce Gesù. Non è curioso sto fatto, che di due nasce noi moriamo. Oh, come che è nato tu? Che è nato in due stessi giorni che è nato Gesù? Che questo è proprio lo stesso giorno questo, è uguale preciso. È pure in la stessa strada, questa è la stessa strada, uguale preciso. Eppure io, no, dicevo sempre questa cosa alla gente. Voi sapete questa cosa di figlio mio? Dice alla gente. Voi sapete questa cosa che figlio mio, Saverio mio, ha nato lo stesso giorno di Gesù. Ovvero lo stesso giorno, è uguale preciso. Perché Saverio mio non ha nato un giorno così, un giorno come tutti quanti l'altro. Ha nato lo stesso giorno di Gesù, usando il più importante che c'è, capo? Con tutto rispetto per Sant'Egidio, Sant'Antonio, che pure loro sono importanti, sono vero importanti, ma mai come Gesù, che ha nato lo stesso giorno di Saverio mio, e questo è Saverio mio, e questa è la nascita sua, capo? Saverio mio ha fatto grande. Ha fatto uno pizzi giovane, cavuto, che quindi faccio pure fatica, ma lo guarda tanto che cavuto. Catanno, e c'è di rimasto, qua a capa fasciata. Ah, quella volta che vi è svenuta, andando a Fontanedda. Atanno, e c'è di rimasto, comento, ingollato lo pietto. Capù? Dice con è bere che decide tutto il destino. E o mio ha stato qui di camminare, qua a capa fasciata, a contare i petri in terra. Quando lo sopro, perfetto distingo lo negro del blanco, viene l'alto cielo su fondo è estrellado. Y en las multitudes del hombre que yo amo, gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído en todo su ancho.